Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti, nella trasmissione odierna vi diremo di In che mani, vi diremo di Notte Nebbia, ancora notte e ancora ai noi nebbia, e vi diremo anche di Tutti.